550. Pavone. Ora che nella serie degli arrosti vi ho nominati alcuni volatili di origine esotica, mi accorgo di non avervi parlato del pavone, Pavo cristatus, che mi lasciò ricordo di carne eccellente per individui di giovane età, e il più splendido per lo sfarzo dei colori fra gli uccelli dell'ordine dei gallinacei. Il pavone abita le foreste delle Indie orientali e trovasi in stato selvatico a Guzerate, nell'Indostan, a Cambogia, sulle coste del Malabar, nel regno di Siam e nell'isola di Giava. Quando Alessandro il Macedone, invasa l'Asia Minore, vide questi uccelli la prima volta, dice si rimanesse così colpito dalla loro bellezza da interdire con severe pene di ucciderli. Fu quel monarca che li introdusse in Grecia, ove furono oggetto di tale curiosità che tutti correvano a vederli. Ma poscia, trasportati a Roma sulla decadenza della Repubblica, il primo a cibarsene fu Quinto Ortensio, l'oratore, emulo di Cicerone, e piaciuti assai, montarono in grande stima dopo che Aufidio l'Urcone insegnò la maniera di ingrassarli, tenendone un pollaio dal quale traeva una rendita di 1500 scudi, la qualcosa non è lontana dal vero se si vendevano a ragguaglio di 5 scudi l'uno.